Movimento Donna Vita Libertà continua, è evidente che è un movimento ancora molto sentito dai giovani e dalle giovani iraniane. Gli slogan, appunto, Donna Vita Libertà è stato lo slogan simbolo di queste proteste. Ovviamente a questo si unisce Morte al Dittatore, perché la repressione viene dal regime di Ayatollah. È un movimento che va avanti, questo è soltanto il primo anniversario dall'uccisione il 16 settembre 2022 della giovane curda Mahsa Amini, e evidentemente che il movimento ancora vivo lo dimostra il fatto che ci sono state manifestazioni in tutto il paese, a Teheran, a Rasht, a Ahmedan, a Raqqa, a Yazd, vicino a Shiraz, nelle città kurde, a Sanandaj. In particolare sono state molto sentite le manifestazioni a Sakhez, la città dove viveva e dove c'è la tomba di Mahsa Amini, e anche qui bisogna ricordare che la sua famiglia ha subito pressioni, minacce, già alla vigilia dell'anniversario alcuni familiari sono stati arrestati, e poi è stato arrestato suo padre Amjad, che era stato particolarmente sensibile e aveva chiesto di ricordare Mahsa Amini, però anche lui ha subito pressioni che fondamentalmente erano volte a evitare che ci fossero assembramenti, manifestazioni nel primo anniversario della morte di Mahsa Amini. E dalle notizie che ci arrivano, questa cosa ha riguardato un po' tutti i familiari delle vittime, che sono oltre 500, a cui poi si devono aggiungere le persone che sono state condannate a morte. Quindi evidentemente c'è un sentimento molto diffuso di frustrazione nei confronti della leadership di Ayatollah, e questa cosa si sente, si avverte ancora un anno dopo. Ci sono state proteste nel centro di Teheran, in particolare di manifestanti che da piazza Enghelab hanno provato ad andare a piazza Zadi e sono stati arrestati. Una ragazza è stata circondata e minacciata dalle forze di polizia. Come in tutte le fasi cruciali del movimento, internet è stato bloccato, così come i social network, evidentemente questo per impedire l'organizzazione delle manifestazioni, che ci fossero delle proteste strutturate, che sono quelle poi che hanno segnato quest'anno. Quindi questo sicuramente, questo primo anniversario dell'uccisione di Mahsa Amini, che è diventato il simbolo di queste proteste, che ricordiamo hanno due anime: una è quella dei diritti delle donne, della richiesta della fine dell'obbligo delle hijab, e l'altra è quella dei diritti delle minoranze, in particolare delle minoranze kurde, che sono scese in massa per chiedere la fine della repressione che hanno subito negli ultimi 44 anni, cioè dopo la rivoluzione del 1979. Ad un anno appunto di distanza il movimento quindi è ancora vivo. Se dovessimo fare un bilancio su quello che è riuscito a ottenere fronteggiando una repressione, insomma, che è stata anche molto dura, cosa potremmo dire? Da una parte, questo anno ha fatto crescere un sentimento globale contrario alla Repubblica Islamica, perché è evidente che accettare un paese dove ci sono questo tipo di posizioni, questa mancanza di rispetto dei diritti delle donne, questa obbligatorietà del velo, è diventato insopportabile. Infatti in questi giorni ci sono state altrettante manifestazioni in tutte le grandi città, da New York a Milano a Parigi all'Australia. Evidentemente c'è un sentimento generale, globale, che è contrario alle imposizioni che vengono dalla Repubblica Islamica. Non solo, c'è un movimento sociale che è significativo, che è uno dei più grandi movimenti sociali degli ultimi 10 anni, che attraversa il Nord Africa e il Medio Oriente, paragonabile magari alle primavere arabe per estensione. Però evidentemente questo movimento Donna Vita Libertà sta faticando a ottenere i risultati che si era prefissato, perché i manifestanti in Iran stanno subendo una delle repressioni più brutali mai viste nella regione. Il movimento è nato per le restrizioni che sono state ancora una volta imposte alle donne iraniane dal presidente radicale conservatore Ebrahim Raisi: normative sul riconoscimento facciale, giornale delle hijab e della castità, le leggi sulla protezione, dignità e sicurezza delle donne. Quindi in particolare le donne iraniane sono state messe sotto la lente di ingrandimento delle autorità iraniane, perché sanno benissimo gli iraniani, i politici, Ayatollah e la polizia, che proprio le donne sono il centro, il cuore delle mobilitazioni. Pensiamo al movimento del 2018-2019, anche in quel caso le figure, la presenza delle donne e la presenza femminile all'interno delle proteste era essenziale. Tanto è vero che poi a un certo punto ci sono stati alcuni politici riformisti che hanno detto: ma smettiamola a pensare solo alle hijab, andiamo oltre, non è quello il centro, il cuore della Repubblica Islamica. Si sono svegliati dopo anni di silenzio. Tanto è vero che sembrava che le donne iraniane avessero ottenuto questo, cioè tante di loro si erano tolte il velo, camminavano per strada senza velo, senza subire arresti come avveniva in passato. Questo poi è finito il 16 luglio, perché sono state imposte di nuovo delle regolamentazioni molto restrittive, e così la polizia morale è tornata a arrestare le donne per il loro abbigliamento. Altre cose si possono aggiungere: che questo movimento non ha trovato un leader come Khomeini nella rivoluzione del 1979, se non una leadership diffusa tra i giovani all'interno dei sindacati spettacoli studenteschi. Ricordiamo queste immagini bellissime delle ragazze nei licei che continuavano a protestare, alcune di loro sono state avvelenate per impedire la loro partecipazione nelle proteste. Una mobilitazione delle donne iraniane in tutto il mondo senza precedenti, tante sportive che si sono svelate, tante attrici, quindi anche l'arte e l'accademia e l'università sono state a fianco delle manifestazioni. Forse quello che un po' è mancato anche rispetto alla rivoluzione del 79 è un legame forte tra queste proteste urbane e i lavoratori del dei vari settori delle industrie iraniane. C'è stata una mobilitazione del settore petrolifero, però certo il legame solido che c'era tra mobilitazioni urbane e lavoratori nel 1979 non è paragonabile agli scioperi e le chiusure che ci sono state nel 2022-2023. Evidentemente movimento social, perché sono state utilizzate le reti Telegram e le grandi reti satellitari internazionali per motivare le proteste, VPN, cioè i filtri per superare i limiti imposti dalla Repubblica Islamica, però tutto questo in un contesto geopolitico sfavorevole, per cui l'Iran non ha avuto un sostegno internazionale adeguato che potesse portare ad un successo più diffuso di queste proteste che comunque andranno avanti. Ricordiamo che l'Iran è uno dei paesi che più ha sostenuto Mosca, anche con la fornitura di droni. Questi droni sono stati utilizzati contro l'Ucraina, quindi evidentemente c'era tutto per poter avere una posizione più incisiva rispetto alle autorità iraniane. Questo non è stato, e adesso si sta parlando di un ritorno riguardo all'accordo sul nucleare, perché l'Iran ha rallentato l'arricchimento dell'uranio, quindi staremo a vedere da un punto di vista geopolitico cosa succederà. Comunque il rapporto tra Stato e società in Iran è cambiato dopo le proteste del 2022-2023, e evidentemente adesso bisogna vedere fino a che punto i giovani iraniani vorranno confrontarsi, continuare a morire, continuare a subire le violenze, 20.000 prigionieri politici, e continuare ad essere arrestati, torturati, minacciati, a subire violenze in carcere. Però evidentemente il segno è che questo movimento continuerà, e i giovani iraniani ancora una volta continueranno a rinnovare il loro repertorio di contestazione per ottenere tutti gli obiettivi di uguaglianza e di diritti che si erano prefissati già prima delle rivolte del 2022-2023, già dalle mobilitazioni del 1999.